impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Finstral, serramenti fatti in casa. Di Andrea Ferro. È una storia che si apre dalle montagne sopra Bolzano, dalle quali la prospettiva incoraggia la voglia di affrontare le sfide con nuove opportunità che si spalancano in fretta. La metafora oggi ben si presta. Protagonista della puntata oggi è infatti un'azienda leader nel settore delle porte e delle finestre. È la Finstral, con sede a Collalbo, sull'altopiano del Renon. Una trama di vita, di impresa e di famiglia, che inizia alla fine degli anni 60 in una falegnameria, come ci racconta Luis Oberauk, oggi al timone dell'azienda. È iniziata nel 69, diciamo da un'azienda di famiglia, una falegnameria di famiglia. Mio fratello ha fondato questa azienda con un altro socio, perché diciamo così la falegnameria, diciamo, come impresa non, in un certo senso non gli bastava più. Cioè lui aveva l'idea di uscire un po' da quello che, perché la falegnameria comunque lavora tipicamente a livello molto locale, invece lui ha cercato un qualcosa con il quale poteva uscire un po', diciamo così, da questa situazione molto locale. Locale vuol dire di paese, qui diciamo arrivare massimo a Bolzano città vuol dire che un raggio di azione molto limitato, no? La nostra sede è comunque sempre qua a Renon, vicino a Bolzano, però ci voleva un prodotto adatto a far quello. E allora con questa finestra, a suo tempo molto innovativa in PVC, lui aveva l'idea di sì, questo potrebbe essere un prodotto col quale si riesce anche, diciamo, a lavorare almeno a livello provinciale, regionale, di più non aveva pensato ancora a quei tempi là, no? Però comunque già una bella espansione, no? Aveva in testa almeno. L'intuizione della finestra in PVC è a suo modo rivoluzionaria, anche se Hans Oberauk, il fratello di Luis, lì per lì non coglie la portata dell'idea che lo condurrà sempre più lontano rispetto all'orizzonte iniziale. La scelta del nome dell'azienda, Finstral, ha un'origine particolare, composta. Visto che nei nomi dei mobili realizzati nella falegnameria ricorreva la parola Fin, Oberauk vi ha aggiunto Strahl, che in tedesco significa raggio di luce, quella luce che ha accompagnato la storia dell'azienda lungo i suoi vari passaggi. Un momento importante per l'azienda è stato quello nel 74. Nel 74 l'azienda ha avuto un primo contatto con dei rivenditori in Germania e da lì è partita, diciamo, l'espansione all'estero molto presto, per dire, no? Nel 74, 5 anni dopo la fondazione, e quello ha dato una grossa spinta all'azienda, perché qui si sono poi aperte delle porte molto interessanti, anche perché il prodotto che facevamo poi in Germania era molto più conosciuto di quanto era conosciuto in Italia. Perciò lì è poi iniziata una grande o bella grande espansione. Con questa esperienza che abbiamo poi fatto in Germania, negli anni successivi, abbiamo poi avuto anche il coraggio di andare anche in altri paesi, vuol dire all'inizio degli anni 80, poi in Svizzera, poi i Paesi Bassi, nell'84 anche in Francia, e poi all'inizio degli anni 90 anche Spagna e Portogallo. E questi sono stati dei passi molto importanti, perché solo questo permetteva all'azienda di crescere e di espandersi. Nello stesso tempo però, a partire più o meno dal 75, c'è stata anche l'espansione fuori provincia in Italia, cioè fuori provincia vuol dire in tutta Italia, attraverso dei rivenditori, e ecco, e così tutto sommato, alla fine, e questa è anche la situazione attuale, per noi il mercato italiano è quello più importante. Oggi il gruppo Finstral mantiene la sua sede a Collalbo e in tutto conta 14 stabilimenti, 10 in Italia, 4 in Germania, oltre a una serie di filiali di vendita sul territorio. L'ultimo fatturato ha toccato quota 200 milioni, con tassi di crescita sempre molto interessanti. I dipendenti sono quasi 1500. All'origine di tutto c'è una precisa filosofia aziendale e produttiva, come racconta ancora Luis Oberauk. Noi produciamo un prodotto di qualità, cioè la nostra idea è quella di fare un prodotto di alta qualità, di una gamma molto completa, E poi quello che forse è molto particolare, noi cerchiamo di fare il massimo possibile anche delle componenti all'interno della nostra azienda. Noi partiamo dalla polvere per dire, per fare i nostri profili, noi partiamo dalla lastra di vetro per fare tutti i nostri vetri isolanti, i doppi, i tripli, noi facciamo tutta la lavorazione del legno, la facciamo tutto in casa, vuol dire partiamo dalla tavola in legno, facciamo tutto in casa. Noi facciamo, poi adesso ultimamente abbiamo installato anche la verniciatura a polveri per tutti i profili in alluminio, cioè vuol dire tutto il possibile lo facciamo in casa. Questo ci permette per prima di avere sotto controllo la qualità, secondo anche ci permette di avere sotto controllo anche tutto il processo, e questo proprio in queste settimane, si può dire ultime settimane così, ci ha permesso di comunque di andare avanti in qualche modo, perché noi con il nostro codice Ateco potevamo anche andare avanti con la produzione, almeno in modo limitato, ma solo attraverso il fatto di fare tutte queste cose in casa abbiamo potuto lavorare, perché se no non sarebbe stato possibile. E questa è un po' una particolarità. Sul fronte funzionale, come su quello estetico, con un occhio sempre più attento alla sostenibilità, nel corso del tempo, anche nel mercato dei serramenti, i gusti e le esigenze dei clienti hanno delineato tendenze in costante evoluzione. Particolarmente marcate sono le differenze tra i vari paesi. Di qui, per un'azienda che guarda lontano, si pone la necessità di saper competere in ogni ambito, curando ogni dettaglio. Ogni paese ha le sue tradizioni, come forme, come colori, come anche tipi di apertura, perciò è importante seguire o cercare di riuscire a soddisfare non soltanto, diciamo così, le esigenze in generale, ma poi anche le esigenze anche locali. Vuol dire la Spagna ha tutto un altro tipo di, cioè richiede tutto un altro tipo di finestra da quello che è la Germania. Oltre a quello che sono i valori tecnici, c'è anche tutto questo tema dell'estetica della finestra. Ma in prima linea, per esempio, i paesi del sud hanno altri colori. Le finestre tante volte sono di tinta legno, piuttosto colori anche più scuri. Poi sono, per esempio, sempre due ante, vuol dire si apre, mentre in Germania abbiamo tutte finestre con delle ante più grandi, con delle specchiature più grandi, piuttosto finestre di colori più chiari e avanti così. Certamente le prestazioni in Germania devono essere, chiedono delle prestazioni più alte a livello di isolamento termico. Al sud, per esempio, è più richiesta la finestra di sicurezza. La differenza maggiore è come si va ad applicare la finestra alla costruzione, cioè vuol dire il tipo di applicazione alla parete, al muro. Questo cambia di paese a paese, tante volte addirittura da regione a regione. Perciò noi facciamo un prodotto, per primo tutto su misura, non c'è un minimo di standard. Secondo, dobbiamo adattarci a quelle che sono queste situazioni cantiere per cantiere. Per Finestral, la famiglia è stato un valore aggiunto che nel tempo ha supportato e spinto lo sviluppo dell'azienda bolzanina, partita da una piccola falegnameria è diventata un marchio leader nel settore dei serramenti. A sottolinearlo è ancora Luis Oberauk, oggi alla guida del gruppo. La direzione dell'azienda siamo stati noi due fratelli, certamente qui la collaborazione molto stretta tra di noi è stata importante, diciamo, per lo sviluppo dell'azienda. Adesso abbiamo in azienda anche a livelli di direzione quattro dei nostri figli, due di mio fratello, Joachim, Verena, Florian e Christine, che hanno mansioni di direzione anche già, fratello si può dire che è in pensione, io ancora sono nella situazione di integrare i giovani, però loro già adesso sono responsabili di grandi parti dell'azienda. Loro anche già da piccoli vivono, diciamo, quello che vivono il tutto, comprendono quello che sono le tematiche e così sono entrati, diciamo così. Non li abbiamo spinti, quello è molto importante dirlo, cioè tutti e quattro hanno voluto entrare in azienda, perché noi abbiamo tutti, anche mio fratello come me, anche altri figli ancora che non hanno voluto e l'abbiamo anche accettato. Sono cresciuti, diciamo, un po' anche con l'azienda, perciò per loro entrare in azienda era forse anche un po' più facile, perché hanno vissuto sempre il tutto con noi, diciamo, le nostre discussioni, quello che si è parlato, anche in famiglia certamente si parla di cose di azienda. E perciò però adesso, ecco, siamo molto soddisfatti di questa situazione, perché loro, oltre che volere, hanno anche già dimostrato di essere in grado di portare avanti l'azienda come azienda familiare. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.